AVS Media Demo. AVS Media Demo. Dettata dal mare, quel mare spettatore del tuo suonare. AVS Media Demo. Di chi in precedenza cantò con voce forte l'amore in partenza. Di quella AVS Media Demo. Citata per gli occhi che verdi nel mare parevano specchi. Col vento gridasti quel canto straziato, tre grandi parole di chi innamorato. AVS Media Demo. Ma tanto, tanto, tanto bene sai. Parlavi tu, scrivevi tu. AVS Media Demo. Ma tanto, tanto, tanto bene sai. Guardavi tu, sognavi tu. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Quel canto straziato, tre grandi parole di chi innamorato. Le sente, le ama, non resta deluso. Parlaste col mare del grande Caruso. AVS Media Demo. Chi per te scriverà insieme al vento una nuova canzone sul mar di Sorrento. Tanto, tanto bene sai. Parlavi tu, scrivevi tu. AVS Media Demo. Ma tanto, tanto, tanto bene sai. Guardavi tu, sognavi tu. AVS Media Demo. Ora AVS Media Demo. A parlare col mare di un amore che quel mare ti ha fatto suonare. Media Demo. Un giorno a Sorrento parlerà di te col mare e col vento. Ah. AVS Media Demo. Tanto, tanto, tanto bene sai. Parlavi tu, scrivevi tu. AVS Media Demo. Ma tanto, tanto, tanto bene sai.